Bye. Sofi uma putana. sale del eco ulama tunggu toto usamu sungaku sapa male tengatasi Bele-bele wae matamu kalau sompong di tanah cinta Malaysia. Oh nana ilopie utiro tiro kiani malena wae matamu urapatan apa poci. Tanda bahan